Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccoci insieme, buongiorno e benvenuti, sono le 11.05, siamo pronti, Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, sono pronti anche gli ospiti di oggi, andiamo subito a sentire i titoli del nostro sommario. Se hai sangue nelle vene, dimostralo donandolo. La colonscopia si fa semplice come bere un bicchiere d'acqua. I rischi dell'infradito. Stiamo pensando alle vacanze, per molti il conto alla rovescia è già iniziato, abbiamo tante cose da fare, da organizzare, allora io mi permetto di aggiungerne una alla lista. Prima di partire facciamo una bella cosa, una buona cosa, andiamo a donare il sangue, cambiamo vita con un gesto che può dare la vita, un gesto semplicemente importante come recitava lo slogan di una fortunata campagna che fa grande chi lo dona e aiuta chi lo riceve. Ho letto una poesia sul sorriso, una poesia che è diventata famosa, la conosciamo tutte, e ho visto che donare sangue è un po' come donare un sorriso, no? Rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona. La maggior parte di noi può diventare donatore, oggi lo scopriremo, e la maggior parte di noi, questo dobbiamo tenerne in conto, almeno una volta nella vita potrebbe avere bisogno di sangue. E allora oggi parliamo dell'importanza, della necessità di donare, ma anche dei vantaggi che l'essere donatore comporta. Diamo voce quindi a tutti i nostri dubbi, alle nostre paure, parleremo anche delle leggende metropolitane che tante volte, ammettiamolo, ci hanno impedito di seguire quella vocina, no, sottile dentro di noi che ci suggerisce di andare a donare, ma ho bisogno che i donatori in ascolto, e so che sono tanti, si attivino subito chiamando il nostro numero verde 800 24 0024, perché so che la loro testimonianza è altamente contagiosa. E allora vi presento gli ospiti di oggi, è tornata a trovarci, sono molto contenta, il professor Giuliano Grazzini, che è direttore del Centro Nazionale del Sangue. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicolette, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In linea abbiamo la dottoressa Maria Vittoria Torresi. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Nicoletta. La dottoressa Torresi è commissario nazionale donatori di sangue della Croce Rossa Italiana e coordinatore pro tempore del CIVIS. Il CIVIS, lo ricordiamo, è il coordinamento interassociativo volontari italiani del sangue. Quindi insieme alla dottoressa Torresi abbiamo tutte le associazioni di volontariato. È così, dottoressa Torresi? Assolutamente sì, abbiamo tutte le associazioni, ma soprattutto abbiamo 1.600.000 donatori di sangue che afferiscono a tutte le nostre associazioni e tutti quelli che periodicamente donano il loro sangue. Professor Grazzini, c'è bisogno di sangue sempre e in estate in modo particolare, e il consumo di sangue è in costante crescita, ma questo dato in fondo si può spiegare con il miglioramento delle cure, della qualità di vita dei malati. Pensiamo al trattamento dei traumi gravi, alle malattie congenite del sangue, l'anemia mediterranea ad esempio, agli interventi chirurgici che diventano sempre più complessi, sempre più sofisticati come i trapianti, anche agli interventi di emergenza, quindi è una medicina che cura meglio, che fa in un certo senso aumentare anche il consumo di sangue. Professor Grazzini. Sì, il miglioramento delle cure, come lei giustamente diceva, ha già citato gli esempi fondamentali per cui il bisogno di sangue è in costante incremento. Il miglioramento delle cure, dicevamo, è quello che ci richiede di tenere molto attivo il nostro sistema sempre per poter garantire in tempo reale tutto quello che è necessario dal punto di vista trasfusionale. Prenda ad esempio questo il recentissimo disastro avvenuto a Viareggio, dove c'è stato un numero enorme di ustionati che hanno avuto molto bisogno di plasma, che è la parte liquida del sangue, prima. Poi, dovendo fare interventi chirurgici molto impegnativi successivamente, hanno avuto un grande fabbisogno di globuli rossi. Quindi tutte le componenti del sangue sono andate a curare queste persone, ma questa è soltanto un'emergenza. Diciamo anche che l'invecchiamento della popolazione, la senescenza della popolazione naturalmente richiede un continuo maggiore fabbisogno. Quindi è veramente un gesto vitale la donazione, veramente nel pieno senso della parola. Professore, prima di parlare delle caratteristiche del donatore e dei vantaggi che chi dona può avere in termini proprio di salute, lei ha già accennato alle componenti del sangue, ma facciamo una sorta di carta d'identità. Di che cosa è fatto il sangue? Come vengono utilizzati i vari componenti? Lei diceva appunto gli ustionati in un primo tempo hanno avuto bisogno del plasma, la parte liquida. Esatto. Il sangue intero oggi si dona come tale, oppure si può donare anche per emocomponenti, cioè per ogni singola parte, attraverso una donazione specifica che si chiama aferesi. Sì. Ma tenendo presente la donazione tradizionale del sangue intero, il sangue viene sempre scomposto, per utilizzarlo al meglio, nei suoi componenti principali, secondo quelli che sono i bisogni dei pazienti. Quindi i globuli rossi sono il componente più importante, se ne consumano 2 milioni e mezzo di unità all'anno in Italia, oltre 6.500 ogni giorno in Italia, c'è bisogno di questi emocomponenti, e i globuli rossi noi sappiamo che trasportano l'ossigeno, sì. Quindi danno ossigeno ai tessuti, dai tessuti nobili come il cervello fino ai tessuti periferici, e quindi sono indicati in tutti i casi in cui vi è bisogno di apporto di ossigeno, in tutte le anemie acute e croniche che non trovano un diverso trattamento. Le piastrine sono l'altro componente importante, perché sono i primi effettori della coagulazione del sangue e come tali sono quelli che arrestano le perdite di sangue, e successivamente a questo poi intervengono tutta una serie di proteine che stanno dentro al plasma. Sì. Quindi abbiamo già detto, no, che esistono perdite acute in cui ad esempio dobbiamo fare una trasfusione di globuli rossi, poi però può essere necessario, se esiste un difetto piastrinico, una perdita piastrinica, trasfondere le piastrine, in più aggiungere anche plasma se del caso. Quindi sono tre fondamentali componenti che possono essere usati separatamente secondo i bisogni terapeutici dei pazienti, ma che in alcuni casi, ad esempio come nel disastro di Viareggio, successivamente in sequenza sono stati necessari tutti. Dottoressa Torresi, ho bisogno del suo aiuto per completare la carta d'identità del sangue. Ciascuno di noi ha un gruppo sanguigno 0, A, B, AB. Questa divisione fa sì che ci siano donatori universali e riceventi universali. Riesce a spiegarci bene come stanno le cose, le varie differenze? Sì, i gruppi sanguigni, come lei ha detto, ognuno di noi ha un gruppo sanguigno, e questo gruppo è legato alla presenza di sostanze sulla superficie dei globuli rossi, essenzialmente. Sì. Ora, nel gruppo zero noi abbiamo che i globuli rossi non presentano delle sostanze sulla superficie dei globuli rossi, e invece nel gruppo A, nel gruppo B e nel gruppo AB ci sono sostanze presenti sulla superficie dei globuli rossi. Ora, l'assenza nei globuli rossi dei soggetti di gruppo 0 fa sì che questi globuli rossi possano essere trasfusi, oltre che ai soggetti di gruppo 0, sì, a tutti gli altri soggetti, quindi sono quei soggetti di cui si diceva soggetti donatori universali. Parlando dell'universale, dobbiamo aggiungere anche quell'altra caratteristica dei globuli rossi, che è legata al fattore RH. Sì. Ecco, il fattore RH, che ci sono dei soggetti RH positivi e soggetti RH negativi. I soggetti RH positivi sono all'incirca l'85% della popolazione, sì, e gli RH negativi quindi il 15%. Ora, i veri donatori universali sono gli zeri RH negativi, cioè e questa, diciamo, caratteristica di questi soggetti li rende particolarmente importanti, perché nel caso di emergenza sono quei globuli rossi, quindi quel sangue proveniente da questi soggetti, può essere trasfuso immediatamente laddove c'è l'assoluta necessità, senza che si possano fare degli accertamenti. Ovviamente questi soggetti, questi sangui sono stati screenati e quindi sono di assoluta sicurezza per il ricevente. Questa è la caratteristica del donatore universale. Ora però è anche vero che in questo momento servono tutti i donatori, a qualsiasi gruppo essi appartengano. Ecco, quindi lanciamo questo appello. Intanto invitiamo i donatori a mettersi in contatto con noi all'800 24 00 24. Dottoressa Torresi, professor Grassini, voglio leggervi, stanno arrivando davvero tantissimi messaggi. Alcuni sono messaggi che, di donatori che ci scrivono: donate sangue, vi sentirete meglio, io lo dono solo 2 volte all'anno, ma se potessi lo donerei 4, ci scrive Karim. Invece ci sono degli ascoltatori che ci scrivono per chiederci se possono diventare donatori. Tante volte c'è un po' di confusione, dovremmo parlarne con il nostro medico di famiglia, ma ad esempio ci scrive Monica da Milano: ho smesso di fumare da poco, potrò donare anch'io in futuro? Dopo quanto tempo da quando si è smesso? Pratico attività sportiva e ho un'alimentazione equilibrata, ho 32 anni. Professor Grazzini. La signorina o la signora può assolutamente donare subito, addirittura possono donare il sangue anche soggetti che sono fumatori, purché siano naturalmente in buona salute. Quindi a maggior ragione, se la signorina ha smesso di fumare, ha fatto benissimo, le facciamo i nostri più calorosi complimenti per questa bellissima scelta. Se poi anche ha una dieta molto equilibrata, fa sport e quant'altro, è una donatrice virtualmente ideale. Andrea invece ci chiama dalla provincia di Imperia. 800 24 00 24. Andrea, benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Io sono un donatore che ho solo 29 anni, però dono dall'età di 18. Bravo, Andrea. Sì, ho cominciato perché io avevo una paura tremenda degli aghi che ho tuttora e nonostante tutto comunque ho ricevuto una medaglia per le mie continue donazioni. Perché lei quindi... è un donatore abituale, Andrea. Sì, sì. Ogni 3 mesi, anzi a volte anche meno, perché essendo 0 negativo, quando c'è un'emergenza mi chiamano. E Andrea, quindi lei, nonostante la paura degli aghi, è una paura spesso che frena chi vorrebbe donare sangue, gira la faccia dall'altra parte, cosa fa? Chiamano l'infermiera più carina di solito, Vede. Fanno bucare dal primario. Andrea, grazie. Vuole mandare un appello, perché oggi voi siete così i nostri testimonial da ogni donatore. Vorrei che così avere un invito per chi ancora non ha mai donato, o magari per riuscire a convincere chi è donatore occasionale a diventare abituale. Io ho imparato dal professor Grazzini che questa è la vera svolta, vero professore? Assolutamente sì, soprattutto per la sicurezza del paziente, perché un donatore di sangue che dona periodicamente a seconda della frequenza che la sua configurazione di salute gli consente è quello che noi possiamo controllare più frequentemente, quindi che dà la maggiore garanzia. Inoltre, donando periodicamente, penso che ne parleremo più avanti nella trasmissione, il donatore ha il maggior beneficio in termini di medicina preventiva. Andrea, allora, vuole lasciarci con un invito per chi ci sta ascoltando? Certamente, sì. Vorrei consigliare a tutti di donare perché, come ha detto il professore poc'anzi, dà anche la possibilità di tenersi controllati con regolarità. E poi, almeno per quanto ne so, io non ci sono controindicazioni. Io sono vegetariano, faccio sport e tutto quanto, quindi... Non mi dà alcun problema, anzi tante volte non faccio neppure l'esenzione, quella che è prevista per legge, dal lavoro. Io dono tranquillamente, il giorno stesso lavoro senza nessun problema. Avendo io paura degli aghi, proprio se lo faccio io lo può fare chiunque. Chiunque. Grazie Andrea, buona giornata. Andiamo a Paolo che ci chiama da Roma. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ci racconti? Io la sento bene, grazie Paolo. Allora, io sono un donatore abituale, ho 49 anni e come dicevo alla sua collaboratrice, nell'ultimo anno, dono mediamente 4 volte l'anno io come tipo di donazione, e nell'ultimo anno per motivi di stress, sovrappeso e quant'altro ho avuto un picco di pressione che mi ha impedito, prendendo una pasticca d'accordo con il medico di famiglia, mi ha impedito la donazione. Sì. Ora sto riportando i valori, sono dimagrito 11 kg. Però bravo Paolo! E altra strada dovrò fare su questo percorso, però siccome mi manca tanto la donazione, perché lo sento come è stato proprio un motivo, una scelta la mia, non un obbligo né tantomeno un interesse, è stata una scelta molti anni fa e ho continuato anch'io, sono medaglia d'argento e quant'altro, però volevo chiedere, adesso sto prendendo mezza pasticca di quel farmaco e i valori della pressione sono più o meno stabili intorno agli 80, 145, 150. Sì. E volevo chiedere al professore se ci sono magari conto per dopo l'estate, appena finita l'estate, di poter provare a togliere del tutto anche questa mezza pasticca e vedere come sono i valori pressori per poter continuare a donare. Professor Grazzini, sì, Paolo potrà donare? Assolutamente sì. Direi, innanzitutto complimenti per avere ridotto l'eccesso di peso corporeo, che è un provvedimento di salute personale assolutamente fondamentale. Il fatto che sia stata riscontrata una lieve, mi pare di capire, ipertensione e la stessa sia stata messa in trattamento con un farmaco, mi immagino relativamente leggero, sì, di per sé non controindicherebbe la donazione del sangue, purché la pressione sia, come si dice, ben controllata e sistematicamente ben controllata. Quindi direi che sicuramente alla fine dell'estate, comunque quando il nostro amico donatore intende riprendere a donare, se mantiene questo tipo di condotta di vita, si controlla bene, si fa periodicamente controllare la pressione senza eccedere, perché altrimenti l'assillo nel controllare è controproducente, può essere certo, controproducente, quindi con tranquillità, con serenità, potrà senza dubbio riprendere a donare. 800 24 00 24, la dottoressa Torresi, il professor Grazzini restano con noi, naturalmente aiutati da tanti volontari che mi auguro continuino a mettersi in contatto con noi per lanciare il loro appello, raccogliere e raccontarci la loro esperienza. 800 24 00 24, il nostro numero verde per parlare di oro rosso, i messaggi 349 238 6666. Una mela al giorno. Una pillola dotata di telecamere potrebbe presto sostituire un esame fondamentale ma alquanto fastidioso, la colonscopia. Ne parliamo oggi con il professor Guido Costamagna, direttore dell'unità operativa di endoscopia digestiva chirurgica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, che è uno dei firmatari di un articolo molto interessante che è uscito su una prestigiosa rivista scientifica, il New England Journal of Medicine. Professor Costamagna, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie. Dunque, professor Costamagna, fare la colonscopia nel prossimo futuro sarà semplice come bere un bicchiere d'acqua? Direi che l'applicazione della pillola telecamera potrebbe essere una novità importante, perché non evita la preparazione, che comunque è una delle cose poco gradite dai pazienti, ma sicuramente è molto meno invasiva e soprattutto evita tutte le potenziali complicanze della colonscopia, che per quanto siano molto rare possono essere però pericolose. Ma come funziona, professore, questa pillola? Questa capsula viaggia nell'acqua della preparazione come un sottomarino. Il colon non viene disteso dall'aria come si fa con la colonscopia e quindi ci deve essere un mezzo nel quale la capsula viene trasportata dai movimenti intestinali della peristalsi, e questo mezzo deve essere limpido, perché le telecamere, che sono due nella capsula del colon, possono registrare le immagini, e quindi la preparazione riveste un'importanza fondamentale in questo esame. Professore, ma questa pillola sarà indicata per tutti oppure ci saranno sempre delle persone che volenti o nolenti dovranno sottoporsi alla colonscopia tradizionale? Intanto è importante sottolineare che questa indagine è un'indagine soltanto diagnostica, cioè può vedere delle lesioni, dei polipi o dei tumori o delle malattie infiammatorie, ma non può in nessun modo né fare biopsie né toglierli i polipi, e quindi la colonscopia resterà un esame fondamentale quando ci sarà necessità di ottenere un campione bioptico da analizzare o quando ci sarà un polipo da togliere. L'aspettativa è che questa comunque possa diventare in un futuro una tecnica di screening, cioè che possa essere utilizzata su larga base proprio per l'individuazione precoce dei polipi e quindi la prevenzione del tumore del colon retto. Professor Costamagna, possiamo parlare anche di tempi? Tempi sono abbastanza rapidi, perché in realtà questa tecnologia è già commercializzata, la prima generazione, è ancora molto poco utilizzata perché risultati comparativi con la colonscopia come quelli che abbiamo pubblicato noi su New England non sono ancora disponibili. Però diciamo che io penso che con la seconda generazione di pillola che sarà disponibile per noi per uno studio a settembre e che probabilmente sarà disponibile nel mercato già durante l'anno prossimo, le cose potranno essere fatte un po' dovunque. Professor Costamagna, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e buon lavoro. Grazie, altrettanto. Pronto soccorso. Torniamo a parlare dell'importanza della donazione, lo facciamo oggi con la dottoressa Torresi e il professor Grazzini. Dottoressa Torresi, le leggo qualche messaggio. Sto ancora allattando il mio bambino di 18 mesi. Posso lo stesso iniziare a donare? Il mio gruppo è B positivo, ci scrive Sara da Milano. Sì, la signora può... Diciamo che quando si parla di donazione... Il discorso è che comunque da parte di tutti i medici trasfusionisti e da parte di ogni centro trasfusionale, di ogni unità di raccolta, sì. La massima attenzione deve essere volta alla sicurezza del donatore. Quindi il discorso è, come parlava prima il professor Grazzini a proposito del donatore di Paolo che faceva uso di un antipertensivo. Quindi vale anche per la signora, cioè si valuterà la situazione della signora e quelle che sono le sue condizioni. Quindi non ci sarà nessun rischio per la signora nel momento in cui le sue condizioni, proprio della signora, quindi certo, i suoi valori di emocromo, i suoi valori di sideremia, eccetera, saranno nei limiti consentiti e quindi con la massima sicurezza per lei si potrà procedere al prelievo. Professore, arrivano molti messaggi di ascoltatori che chiedono se c'è un limite d'età. Allora io approfitterei, cerchiamo di fare un po' l'identikit del donatore. Il donatore è persona sostanzialmente in buona salute, sì, deve avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni e pesare almeno 50 kg. Sì. È vero che oggi noi abbiamo dei soggetti che a 65 anni sono in perfetta forma fisica, sì, per cui la legge consente a giudizio medico, quindi a giudizio del medico del servizio trasfusionale o dell'unità di raccolta, di prorogare l'età anche oltre i 65 anni, ovviamente mettendo in campo magari qualche accertamento clinico in più, soprattutto dal punto di vista cardiologico, il colesterolo, eccetera, eccetera. Quindi cercare di... Una cosa importante è che oggi la donazione del sangue è qualcosa che si fa un po' su misura sul donatore. Cioè il medico che è responsabile della selezione clinica del donatore valuta caso per caso, sia dal punto di vista il donatore sia dal punto di vista della tutela della sua salute che dal punto di vista ovviamente della tutela di chi deve ricevere il sangue. Quindi esiste un limite scritto nella legge fino a 65 anni, ma la stessa legge consente al medico che effettua la selezione clinica di prorogare di qualche anno questo termine. Allora, oggi dicevo, con l'aiuto di tanti volontari e soprattutto con l'intervento dei nostri ospiti che ci spiegheranno per bene chi può donare, cosa vuol dire donare e soprattutto quali garanzie ha chi dona, chi diventa donatore, questi controlli che permettono di fare una sorta di check-up della salute, abbiamo chiamato però anche altri amici a darci manforti e ha risposto subito al nostro appello Pino Campagna, che sta girando per l'Italia col suo spettacolo Non Solo Ultras. Pino, benvenuto. Sì, salve a tutti, buona salute a tutti, ciao Nicoletta e un salutone agli amici di Radio 24, radio veramente molto professionale, complimenti. Senti Pino, tu sei stato tra l'altro testimonial proprio lo scorso anno per l'Abis della Puglia, no? Sì, l'anno scorso ho avuto una bellissima esperienza con il presidente dottor Fedele, sono stato testimonial per quanto riguarda la campagna della donazione di sangue appunto per l'Avis. È stata una bella esperienza perché abbiamo girato degli spot molto divertenti, sai, insomma, io cerco di fare il comico, non è che è un mestiere mica da ridere il comico, no, è vero, giusto per parafrasare una frase del grandissimo Walter Valdi. E allora far avvicinare i ragazzi oggi, perché il nostro messaggio messaggio, anzi il mio messaggio, visto che il mio pubblico sostanzialmente è degli adolescenti, per cui vige ancora quel tormentone sì. che fa papi ci sei, ce la fai, sei connesso. Sì, no? Guarda, è stato un tormentone anche ora le mie figlie, invece dicono mami ci sei, ce la fai, sei connessa, mannaggia te. Ecco, e noi lo traduciamo per chi vuole donare, vero? Infatti io vorrei dire ragazzo oppure giovane ci sei, ce la fai, se avis. Ecco, io prendo un po' questo mio slogan, ne faccio diciamo una primizia per poter convogliare l'interesse dei giovani, che oggi purtroppo, cara Nicoletta, l'interesse dei giovani sai com'è? No, l'interesse dei giovani è su internet, no? Sì. Che è una grandissima fonte di informazione sicuramente, però oggi i nostri ragazzi, per esempio i miei figli, io quando vengo a casa, quelle poche volte che sono libero dal torneo, vengo a casa, li trovo a casa, cioè prima noi andavamo per strada a giocare, no? Sì, invece loro sono incollati. Anche perché voglio dire, che cosa ti servono 500 amici su Facebook se non hai un cavolo d'amico con cui parlare o una ragazza con cui uscire? Quindi voglio dire, ci c'è l'utilità e anche l'inutilità di certe cose. Magari Facebook si potrebbe anche sfruttare dal punto di vista dell'interesse per far appunto per far coinvolgere tutto l'interesse anche dei giovani sulle donazioni del sangue, che io poi, avendo vissuto in primis come papi, avendo avuto un figlio malato di leucemia e guarito da questo brutto male, quindi ho visto nel mio excursus un sacco di bambini andare via e un sacco di bambini salvarsi, perché oggi per quanto riguarda la leucemia appunto c'è il 70% dei bambini che si salvano perché voglio sì. dire ha fatto pace da gigante, però noi dovremmo anche un po' solidarizzare anche con il 30%, cioè abbiamo bisogno di salvare tutti. Insomma. Abbiamo bisogno di salvare tutto e con un gesto semplice possiamo veramente salvare le vite. Pino, io grazie per il tuo intervento e soprattutto trovo che quest'idea di utilizzare Facebook per raggiungere i ragazzi e quindi aiutarli a diventare sin da giovani, compiuti 18 anni, dei donatori, trovo che sia magnifica. Pino, ti abbraccio, ti ringrazio, grazie. Ti seguiremo in giro per l'Italia con il tuo spettacolo Non Solo Ultras e sicuramente i volontari saranno con te. Grazie Pino. Grazie, ciao Nicoletta. Un abbraccio. Ciao, grazie. Avete sangue nelle vene, dimostratelo donandolo. Questo è il titolo che abbiamo dato alla puntata di oggi, un titolo devo dire che vuole suonare a un invito a diventare donatore. Intanto che ci pensate e nell'attesa delle vostre chiamate al numero 824 0024, apriamo una breve parentesi sull'influenza da virus A. E in linea con noi è tornato a trovarci il professor Giuseppe Remuzzi, che è coordinatore delle ricerche del Mario Negri di Bergamo. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professor Remuzzi, sul Washington Post di questi giorni è stato pubblicato un articolo il cui titolo suonava pressappoco così: per l'influenza non chiedere al tuo medico. Io non seguo questo consiglio, anzi per saperne di più mi rivolgo proprio a lei, che ha sotto mano il parere di non uno ma di tanti esponenti della comunità scientifica e i risultati di tantissimi studi. Quindi, con tutto questo materiale a disposizione, le chiedo: che cos'ha di diverso questa nuova influenza, a parte la maggiore rapidità a diffondersi, da quella comune influenza stagionale? Sì, il titolo del Washington Post è molto bello e serve per dire: guardate che il dottore alla fine non ce ne sa molto, perché non è molto che si può sapere. Quello che possiamo sapere è che al contrario dell'influenza stagionale, che normalmente colpisce soprattutto le persone anziane, questo virus influenzale attacca più i bambini e i giovani che gli anziani. Per esempio, se noi andiamo a vedere le persone che sono morte nella città di New York, sono stati 47 fino a tre giorni fa, 44 erano persone più giovani di 25 anni. E questo qua naturalmente comporta un problema per tutti i sistemi sanitari, perché tra l'altro i ragazzi normalmente vanno meno dal medico di quando non vadano gli adulti. Professore, ma al di là di questo, e sarà più pericolosa dell'influenza quella stagionale? Quello che sappiamo finora è che le persone morte di influenza poi di fatto è influenza dei suini davvero, perché viene dal maiale, sono meno di quelle che sono morte perché muoiono normalmente per influenza stagionale. L'influenza stagionale riguarda il 10% della popolazione e uccide ogni anno al mondo 1 milione di persone. per adesso sono morte di influenza A in tutto il mondo 642 persone, adesso si smettono di contare perché la malattia si sta diffondendo, siamo arrivati a 100.000, diventa difficile anche per l'Organizzazione Mondiale della Sanità andare avanti a contarle. Calcoliamo che sono morte in tutto il mondo per adesso 642 persone, quando solo in Italia ne muoiono 5.000 di influenza stagionale. Quindi dobbiamo essere relativamente tranquilli perché per adesso la mortalità associata a questa influenza è persino più bassa di quella stagionale. Però certo gli studi stanno andando avanti e ci sono dei dati sperimentali che fanno pensare che dobbiamo essere molto attenti a questa influenza, perché è un'influenza che negli animali ha la capacità di attaccare determinati tessuti, per esempio il polmone, di più di quanto non sappia fare l'influenza stagionale. Normale. Professore, adesso noi andiamo in vacanza, no? Un po' a cuor leggero, poi al ritorno però dovremo fare i conti con l'autunno. Si è parlato addirittura di posticipare l'apertura delle scuole, una notizia poi è stata categoricamente smentita. L'autunno? Ma l'autunno non lo sappiamo, qui ritorna il titolo del Washington Post, e quindi dire che si dovranno chiudere le scuole o non chiudere è assolutamente speculativo, perché nessuno, nemmeno il tuo dottore, può sapere di fatto che cosa succede, quindi meno che meno lo possono sapere i ministri in questo momento. Noi abbiamo sempre pensato, ma questa è un'influenza che ricorda il 1918, sì. In realtà questa è l'influenza del 1918, che non se n'è mai andata via fino al 57 dal nostro mondo, è evoluta, i virus si sono ricombinati, hanno utilizzato il maiale come ospite, adesso è un virus più complesso che ha diversi antigeni, dicono il dottore, cioè proteine del maiale, dell'influenza dell'uccello e dell'uomo, e quello che succede è che questa malattia è sempre quella dal 18 al 54 e poi è ritornata dal 57 al 77, ancora si è diffusa, quindi di fatto viviamo sempre in quella pandemia lì, che però adesso colpisce di più le persone più giovani. Come andrà a finire in autunno? Dovremo vedere se la manifestazione della malattia saranno ancora lievi come sono adesso. Può darsi che noi intanto acquisiamo anticorpi, sì. Per cui è molto difficile, diventa più difficile che la malattia si diffonde se acquisiamo questi anticorpi. Per esempio, una cosa che è stata vista da questi studi ultimi che sono stati fatti è che le persone nate prima del 1918 hanno anticorpi proprio contro questa influenza qua e non si ammalano. In questo momento può darsi che l'influenza si stia diffondendo e porti tante persone a diventare poi capaci di resistere a quando eventualmente dovesse avere delle manifestazioni più gravi. Sono tutte cose che non sappiamo, le persone stanno preparando il vaccino, il vaccino non sarà per tutti, non sarà pronto subito, e bisogna, per quanto riguarda il vaccino, dare a chi prepara il vaccino il tempo di prepararlo e di testarlo. Quando ci sarà il vaccino, si dice che sarà soprattutto per gli operatori sanitari e per le persone più vulnerabili, sì. Cioè le persone più giovani, i bambini e poi le donne in gravidanza. Però bisogna fare tanta attenzione a non avere la fobia del vaccino, a tutti volere il vaccino, perché un'influenza che veniva dai maiali, che era un'influenza A, che assomiglia un po' a questa influenza, aveva colpito, era un'influenza H1, aveva colpito dei soldati nel New Jersey nel 76. In America si sono spaventati, hanno detto prepariamo il vaccino, si sono preparati i vaccini verso l'ottobre e hanno vaccinato 40 milioni di persone, e però l'hanno fatto prima di testare bene quante dosi, quanto per chi, se era sufficientemente sicuro. E allora è venuta una malattia neurologica, si chiama Guillain-Barré, che si è sviluppata in una persona vaccinata su 100.000, cioè da 5 a 10 volte di più di quello che succede normalmente. Quindi si raccomanda di stare, per adesso stiamo calmi, no? Stiamo calmi e tutte le cose vanno prese con grande prudenza e con grande pazienza. La corsa agli antivirali non serve, il 99% di questo ceppo negli Stati Uniti, H1N1, è resistente agli antivirali più comuni, per esempio il Tamiflu, e quegli altri, che sono degli altri inibitori delle neuraminidasi, hanno degli effetti collaterali. Quindi dobbiamo avere pazienza, dobbiamo essere avere prudenti, anche un po' fiducia, avere no? fiducia, lavarci bene le mani soprattutto, ecco, quella è la cosa, questa è la cosa fondamentale per non trasmettere questa influenza. Professor Remuzzi, grazie, noi torniamo a parlare di sangue, buona giornata. Arrivederci, buona giornata a voi. E adesso abbiamo Rosanna che ci chiama da Roma, torniamo a parlare della nostra, del tema del giorno, prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Rosanna, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Complimenti per la trasmissione. Volevo solo sapere sì. se possiamo, se posso donare sangue avendo contratto epatite A in passato. Grazie Rosanna. Professor Grazzini, epatite A, quindi epatite alimentare, si può donare e dopo quanto tempo? Allora, si può donare avendo avuto un'epatite A se si dimostra che il paziente che ha avuto l'epatite A è portatore degli anticorpi, quindi se si dimostra che si è validamente difeso e ovviamente se alla selezione clinica, agli esami di laboratorio che vengono fatti sistematicamente per giudicare l'idoneità del donatore, tutto è normale. È un tipo di epatite, quella, l'epatite A, che è la, diciamo, la meno pericolosa, quella meno impegnativa fra le varie epatiti virali e che di norma, nella stragrande maggioranza dei casi, va a guarigione e la guarigione è pure attestata da degli anticorpi che si possono ricercare. Quindi se il paziente o il donatore riferisce di aver avuto in passato questo tipo di epatite, noi troviamo gli anticorpi, gli esami di funzionalità epatica normali e la visita medica normale, il donatore può tranquillamente donare. Stefano invece ci chiama da Aosta e dopo Stefano andiamo a sentire le strade. Stefano, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Avrei un quesito da porre. Sì, siamo pronti. Mia moglie che pesa sui 48-50 kg. Dal volantino che è stato dato c'è scritto che non può donare. Sì. È in salute, fa sport, non ha mai avuto nessuna malattia, è proprio perfetta. C'è possibilità, hai uno zero negativo come gruppo sanguigno. Sì. C'è la possibilità, non so, con prescrizione medica di, poter di chiudere un occhio per i 48 kg? Grazie Stefano per questa bella domanda. Dottoressa Torresi, dai 50 kg in su si dice, ma 48 kg è vicino, zero negativo, in salute, stile di vita perfetto, sport, non possiamo prenderla? Ma guardi, siamo decisamente a una situazione limite e ritorno a quello che dicevamo prima, cioè è vero la nostra normativa prevede alcuni limiti che hanno un valore essenzialmente per quello che riguarda la protezione del donatore, ma sicuramente nel momento in cui il collega del centro trasfusionale si troverà di fronte a questo soggetto e quindi potrà valutarne la sua situazione clinica e quindi prenderne atto insieme con la volontà di donare di questa persona, io credo che forse un occhio si potrebbe anche chiudere. Quindi professor Grazzini, lasciamoci con questo messaggio prima di andare alle strade, poi diremo, passeremo anche in rassegna alcuni delle leggende metropolitane che aleggiano sulla donazione del sangue. Professore, noi presentiamoci, parliamo con il medico, raccontiamo come stiamo, ci faranno degli esami, sarà il medico a decidere se giustamente farci diventare donatore o se escluderci, non autoescludiamoci noi a priori. Professor Grazzini, possiamo mandare questo messaggio o vuole fare una precisazione? Assolutamente sì, l'importante però è che vi sia la consapevolezza molto profonda che il soggetto si presenta alla donazione con una autoconsapevolezza di essere in buona salute sì. e soprattutto di non avere nella propria storia dei comportamenti a rischio soprattutto riferibili alle tre grandi malattie molto pericolose che oggi sono diventate ormai quasi remote per la trasfusione grazie all'organizzazione e alle conoscenze della medicina trasfusionale, ovvero le situazioni a rischio di avere contratto epatite B, epatite C e l'AIDS in particolare. Quindi anche comportamenti sessuali un po' allegri, mi vanno, il termine, certo, bisogna che costituiscano un elemento di consapevolezza che la donazione è bene che non sia fatta. Ecco, perché è una sorta di patto, di alleanza tra il donatore e il ricevente. Voilà, siamo di nuovo insieme. Dottoressa Torresi, ci sono tante persone che non donano perché si fanno condizionare da alcune storie, leggende metropolitane, paure, pregiudizi. Sicuramente lei le conosce tutte perché ha sotto mano la situazione. Quali sono quelli più duri a morire? Ma guardi, essenzialmente sono un po' le paure che ci sono, un po' l'interesse, una pigrizia di fondo, un disinteresse di fondo nei confronti del problema. In realtà si cerca sempre di sminuire quella che può essere l'importanza, non si capisce. E però poi a questo si associano alcune paure, quella, la paura del lago, ne avevamo parlato prima, sì. Quella paura sembra impossibile ma è ancora presente ed è ancora fondamentale, così come la paura di contrarre delle malattie. Ora, naturalmente questa ultima cosa è assolutamente da escludere dal momento che tutto quello che viene utilizzato per i donatori è assolutamente materiale monouso che non ha assolutamente nessuna possibilità di trasmettere alcunché. Oramai tutte le strutture trasfusionali e tutte le unità di raccolta da questo punto di vista danno l'assoluta certezza, per cui è un qualcosa che effettivamente deve essere completamente escluso e non può essere tenuto come una motivazione valida. Certamente c'è un discorso di fondo di un'emotività di alcune persone e che trova la sua base in un molto spesso si trovano delle motivazioni di salute che tutto sommato sono inesistenti. Noi abbiamo sentito delle persone che vogliono donare nonostante l'allattamento, oppure persone che sono ai limiti per quello che riguarda il peso. E queste persone hanno questa grande volontà di donare, così come al contrario ci sono molte persone in perfetta buona salute che però si trovano tutte le scuse per potersi autoescludere. Allora vorrei rifare il discorso che è stato fatto in precedenza: contattiamo la struttura trasfusionale o il medico, perché sarà lui che ci potrà veramente dire quella che è la nostra situazione. E quindi l'eventuale possibilità o meno di donare sangue. D'altro canto abbiamo anche visto che donare sangue fa bene. Certo. Probabilmente il donatore di Roma che si è trovato la lieve ipertensione, probabilmente appunto anche questa cosa è dovuta al fatto che ha frequentato delle strutture mediche che altrimenti non avrebbe frequentato. E che quindi anche la terapia che lui sta facendo è una terapia che serve a rimetterlo in una perfetta situazione fisica da ogni punto di vista. Quindi credo che appunto molte cose derivano dalla non conoscenza. Non conoscenza. Speriamo che questa trasmissione sia un po' una goccia, no? In questo mare. Bisogna battere, insistere molto sull'informazione, investire nella cultura della donazione. Ma professor Grassini, noi abbiamo Ivano da Milano, a cui chiedo di attendere. Ivano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Ivano, la faccio aspettare perché volevo chiedere al professor Grassini. Abbiamo parlato della sicurezza della donazione, abbiamo parlato anche dei vantaggi del donatore, può controllare la sua salute e poi è in qualche modo educato, no? A seguire un stile di vita sano. Parliamo anche delle garanzie del ricevente? Professore? Certamente. E stava accennando prima la dottoressa Torresi molto correttamente, la selezione clinica del donatore è orientata in due sensi. Il primo è la tutela della salute del donatore. Sì. Non verrebbe mai fatto donare una persona causando alla persona stessa un qualche danno, ovviamente. Quindi una buona selezione clinica del donatore. Dall'altro, partendo proprio dalla selezione clinica del donatore fino a tutti gli accertamenti diagnostici che vengono fatti tutte le volte su tutte le donazioni, esiste una fortissima attenzione alla sicurezza per il ricevente. In una battuta noi possiamo dire che oggi la trasfusione del sangue non è mai stata così sicura, o meglio, non è mai stata così sicura come oggi la trasfusione del sangue, perché partendo da una buona sensibilizzazione del donatore per quella consapevolezza di cui parliamo prima, di buoni stili di vita, una buona selezione clinica, eccellenti e molto attenti esami di laboratorio su ogni donazione, danno una grande sicurezza ai nostri pazienti, perché già un paziente che deve essere trasfuso dal leucemico al grande traumatizzato della strada, al bambino trapiantato di midollo e quant'altri possiamo citare, già hanno un problema. Noi vogliamo che assolutamente, quando queste persone vengono trasfuse, abbiano una grande serenità nel ricevere questo farmaco, questo trattamento. Questo salvavita. Farmaco salvavita, stava esatto, dicendo, professore, ma infatti è così. Salvavita. Ivano, da Milano l'ho fatto attendere, ma volevo dare la precedenza a questa domanda che mi premeva molto. Ivano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi scusi per l'attesa, che ci racconta? Io sono 38 anni e dono sangue da quasi 20 anni, volevo portare la mia testimonianza, quindi ho fatto circa 60 donazioni e volevo invitare tutti a donare. Innanzitutto dire che io sto male solo quando non dono, perché in alcuni casi mi sono dovuto fermare per piccoli problemi, quindi invito tutti a donare che non c'è assolutamente problema, e invito soprattutto i donatori a stimolare persone che non lo fanno, perché io sono riuscito a far iscrivere due persone nella mia vita a donare sangue. Ecco, come ha fatto a convincerli, Ivano? Così prendiamo copiamo lei, come si dice. Semplicemente dicendo che ci sono tanti vantaggi, soprattutto quello di stare controllati con i propri esami, che non c'è assolutamente nessun tipo di timore e che i medici e i infermieri sono lì per qualsiasi cosa, quindi vincere le paure del donatore. Vincere le paure. Ivano, vuole aggiungere qualcosa? Semplicemente che io avevo un po' del colesterolo alto e grazie all'Avis sono riuscito a controllarlo molto. Bene. Spesso con le donazioni sono riuscito a abbassarlo in maniera naturale senza nessuna medicina, perché mi hanno aiutato anche i medici dell'Avis. Grazie Ivano. Ma allora, per convincere ancora quelle persone che non sono ancora lì, ci vuole forse una magia, e io ho un mago in linea, ho mago Marco Berri. Ciao Marco. Ciao, come stai? Tutto bene? Bene, bene, grazie. Marco, abbiamo... Ma che piacere. Il piacere è nostro. L'argomento è eccezionale, insomma, ci vorrebbe un miracolo per far passare le paure della gente. Se pensi che Ivano in 20 anni è riuscito a convincere solo due a donare, sono un po' pochi, però... però meglio due che nessuno. Noi andiamo di piccoli passi. Assolutamente, ma guarda, alla fine io sono un donatore anch'io. Alla fine la cosa incredibile è che uno deve superare le proprie paure. Quando va a donare la prima volta, scopre che le paure erano fatte di nulla, nel senso che le paure di che cosa? Forse la paura del lago, ma se non lo guardi, sì. A parte io non ci ho mai avuto paura del lago, ma voglio dire, se non lo guardi praticamente non lo senti neppure entrare. Quindi non so, è veramente una paura, e quando uno affronta una propria paura e scopre poi che la paura era fatta solo di idee o si sente anche più forte. Ma molto più forte, perché e poi sa che con questo gesto aiuta una vita. Sì, e poi è proprio l'idea di aiutare di aiutare gli altri, cioè che qualcosa di te effettivamente dia una mano agli altri, e la donazione è fondamentale, è così. Insomma, sì. È così, una donazione tira l'altra, cioè, speriamo che un donatore riesca, ogni donatore, a portare un amico a diventare donatore. Sì. Devo salutarvi. Figurati, io ti saluto, devo dire l'unica cosa, che il popolo dei donatori è veramente un popolo. È fantastico, è una bella famiglia, è una bella famiglia di cui bisogna onorarsi di far parte. Professor Grazzini, grazie per essere stato con noi. Dottoressa Torresi, ci ha dato davvero una mano. Grazie. Io spero che chi dona in seguito a questa nostra chiacchierata diventi poi un donatore periodico. Un donatore periodico, è quello che ci auguriamo tutti. Allora, grazie ai miei ospiti, grazie a voi che ci avete seguito, grazie ai tanti volontari che ci hanno chiamato, sostenendo quindi questo nostro invito. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata.